sognavo una vita fatta col rap. Mi trovo senza speranze di fare il cash, ma non importa sai, continuo la mia strada. La luce spessa cieca come se fosse un flash. Io che volevo che fosse tutto diverso, sto cominciando ma mi sembra di aver perso. Io che sorrido poco, fammi una messa a fuoco, che questa volta sorrido un po' come nelle foto. La vita è una reflex, quindi fotografa ciò che tu vivi. Tutto diventa migliore man mano che aggiungi obiettivi. Ma dico davvero, ciò che descrivi non sempre è sincero. Quante persone le scambio per foto a colori, ma sono solo in bianco e nero. Ora per serio, tu dimmi un po' come fai a guardare solamente i contorni tipo fisheye. Ho sempre preso la scelta meno indicata, anche la foto più studiata può venire un po' sfocata, dai. Inizialmente credevo ci fosse un noi, ma la verità la vedi dopo come Polaroid. Sai, il mondo va in fretta e non ti aspetta, ti sfrutta e poi ti butta come macchine usa e getta. Occhi in alto mentre guardo quelle nostre foto, quelle tue parole fredde io le ho messe a fuoco. Vorrei scattarne un'altra, ma non dimentico, se la vita è una reflex io non sono fotogenico. Io che sognavo una vita fatta col rap, mi trovo senza speranze di fare il cash. Ma non importa sai, continuo la mia strada. La luce spessa cieca come se fosse un flash. Io che volevo che fosse tutto diverso, sto cominciando ma mi sembra di aver perso. Io che sorrido poco, fammi una messa a fuoco, che questa volta sorrido un po' come nelle foto. Tra la tua vita è una foto, l'attaccano al muro e la penna un anchiodo. Ma a differenza delle foto, mi mettono a fuoco, ti mettono a rogo. Se quindi scappa da sti stronzi, si fino a Palmo da altri posti. Portati gange, tanti soldi, sì, senza farti tanti conti. E se non ci fosse il rap, non ci fossi te, se ci fosse il cash, prenderei il primo Ryanair e viaggerei fino a Marrakesh. Posti che io vedo in foto, ora che le foto le chiedono a me, volo anche più di sti jet, brillo anche più di sti flash. Io che credevo che fosse un po' tutto diverso, tutto l'inverso, mi trovo a cogliere i semi che ho perso. Rimpiango spesso sbagli che ho messo, rimango immerso nel mio universo. Quindi tu adesso leva il disturbo, poi aspetta il tuo turno, che poi forse ci rivediamo tra un pezzo. Sì, ma non presto. Quelli come te a me fra non sono mai piaciuti. Quando rappo penso solo a farvi stare muti. Se le scopo non lo guardo il volto di ste groupies. La vita è una foto e vengo sempre ad occhi chiusi. Io che sognavo una vita fatta col rap, mi trovo senza speranze di fare il cash. Ma non importa sai, continuo la mia strada. La luce spessa cieca come se fosse un flash.